fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sono sincero, vi ho sempre mentito. Sono circa 20 anni che parlo alla radio mentendo, dicendo bugie, non pensando mai nulla di quello che dico. È vero quello che ho detto? O è semplicemente un escamotage per introdurre la trasmissione di oggi? Ciclope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse quale nemico ti abbia accecato, rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza! Caro Pinocchio, ci sono due specie di bugie, quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo. E le tue, per l'appunto, sono di quelle che hanno il naso lungo? Sì, ho detto una bugia. Mangiafuoco mi ha dato 5 monete, non l'ho spesa per la carità. Barone! Barone! Barone! Di Munchausen, che gioia rivedervi! Cosa ci fate? Levami le mani di dosso! Dove siamo? Sulla luna. Tre tipologie menzogniere. Pinocchio, Ulisse, Barone di Munchausen. Tre personaggi della fantasia, tre maniere sistematiche per porre la menzogna al centro delle qualità e delle virtù che resero celebri tre personaggi. Tre personaggi della fantasia, ma tre tipologie ben precise di menzogna. Senza entrare nell'epica o nella favolistica o nella narrativa, senza assimilare la propria misera e approssimativa capacità di mentire alle fantomatiche e meravigliose menzogne che resero celebri questi personaggi, quanto ognuno di voi dedica alla lucida accettazione di essere un menzognero parte della propria coscienza? Cioè, quanto siete convinti veramente, quanto vi rendete conto, quanto lucidamente sapete che il mondo delle relazioni è fatto soltanto di menzogne. La peggior menzogna, secondo me, è la dichiarazione di sincerità. Te lo dico sinceramente, guarda, con il cuore in mano, guarda sulla testa dei miei figli. Ecco, sono tutte frasi che non fanno altro che disvelare la propria capacità, tensione, volontà, fisiologica impossibilità di fare altrimenti rispetto alla menzogna. Perché mentiamo? Ma perché la menzogna è bella, perché la menzogna costruisce un mondo fantastico attorno a noi, perché la menzogna trasforma in quello che vorremmo essere ciò che noi miseramente siamo. Perché mentiamo? Quando parliamo con persone a cui teniamo, perché il fatto stesso che noi teniamo a queste persone è probabilmente una menzogna. Illudiamo noi stessi che amiamo una persona, illudiamo noi stessi che teniamo una persona. Lo illudiamo perché in fondo è una forma di possesso, ci piace illuderci che noi, quello che noi facciamo per questa persona, ciò che dedichiamo a questa persona, la vita che dividiamo con questa persona, deve avere comunque un prezzo. Il prezzo è il fatto che noi amiamo questa persona, vogliamo bene a questa persona, ma molto probabilmente, non lo dico necessariamente, noi mentiamo. Questa è una menzogna accettata. L'altra persona sa che noi mentiamo. A sua volta mente, fingendo di non saperlo, o fingendo di non sapere che noi sappiamo che lei sa, e via dicendo. Questo naturalmente sembrerebbe un bieco discorso di un pessimista estremo, ma in realtà non è così. Io trovo che la menzogna in realtà sia la possibilità creativa, idealmente costruttiva, che ogni essere umano, anche il meno dotato di fantasia, anche il meno dotato di creatività, anche il meno dotato di spiccate virtù artistiche, letterarie, poetiche, mentendo compie comunque un'operazione fantastica sul reale, perché ricopre la realtà con una sua realtà, una realtà da lui costruita, una realtà fantasmatica, inesistente, del tutto follemente immaginata. Magari lo fa pro domo sua, lo fa per stare meglio, lo fa per fluidificare le proprie relazioni, lo fa per millantare esseri che ciò che lui non è, per millantare qualità, fantomatiche doti che lui non possiede, o semplicemente per salvarsi la faccia, per salvarsi il culo, per salvarsi tutta una serie di altre caratteristiche. In situazioni di crisi si mente per salvarsi la vita, si mente per salvarsi la faccia, si mente per acquisire merito, si mente semplicemente perché è bello mentire, perché è piacevole mentire, perché è bello osservare il mondo che si piega in maniera per noi docile, duttile e fantastica di fronte alla realtà che noi costruiamo ogni giorno semplicemente mentendo. Perché si mente? La bugia, detta per conseguire uno scopo, di solito considerato illecito dalla massa, è la bugia basilare. Mentire serve a patto che non si commetta l'errore imperdonabile di mentire anche a se stessi. Il bugiardo, infatti, deve essere razionale, sempre. È un cacciatore che ha in canna un colpo solo. Gli scopi che una bugia può prefiggersi sono essenzialmente imporsi sugli altri, ottenere un vantaggio materiale, ridisegnare i confini della propria vita. Mentire per imporsi sugli altri vuole dire servirsi della bugia per scopi professionali, per acquistare il controllo psicologico di una persona o per imbrogliare qualcuno. È uno dei tipi di bugia più preso di mira dei moralisti ed è sicuramente uno dei più diffusi, dopo forse quella amorosa, che ne è un parente molto stretto. 800 24 00 24. Voi dovrete questa mattina mentire. Quando mi chiamate, siete obbligati a chiamare, e chiamando dovete mentire, dovete raccontarmi le peggiori delle vostre bugie come se fossero verità, dovete dimostrarmi la capacità menzognera. Perché dovete farlo? Ma per una banalissima questione di profitto, perché questa mattina tengo in mano con grande fatica, perché l'uno di questi è particolarmente poderoso, tre meravigliosi libri infami. Sì, questa è la fantastica mattina della menzognera riffa dei libri infami. Perché dico menzognera? Perché pensate quanto c'è di fallace, di falso nel fatto che io, sorridendo, vi regali dei libri infami, definendo infami libri che in realtà sono impregnati di sudore, di fatica, di aspettative, di attenzione, sono state mandate dagli editori, dagli uffici stampa alla nostra redazione, sperando che noi facessimo gloriosa esposizione, marchettoso racconto di questi libri, e noi li trattiamo come libri infami, come sottoprodotti dell'intelletto, ma in realtà è una menzogna, perché in realtà diamo gloria a questi libri. Ci sono persone che mi chiamano, mi scrivono, scrivono a Melg chiedendo disperatamente un libro infame. Il libro infame ha un valore rispetto al velleitario valore, al millantato credito di chi l'ha scritto, chi l'ha pensato, chi l'ha ideato, chi l'ha pubblicato, chi tenta di diffonderlo, chi lo compra addirittura, al vero valore nella definizione menzognera di essere infame. Quindi tre meravigliosi libri infami, chiamando all'800 24 00 24, raccontando e mentendo e dicendo quanto sia bello mentire. Le due caratteristiche fondamentali della bugia. 1. La bugia deve essere enorme, immensa, al fine di porre chi la subisce in una posizione di incredulità che non solo non lo aiuta a difendersi dalla bugia stessa, ma anzi lo spinge a credere. 2. La bugia deve essere sistematica e sfrontata. Va detta con sicurezza e con naturalezza. 800 24 00 24. Vedo che la menzognera offerta del libro infame sta già scatenando le telefonate. Chiamate semplicemente per avere un libraccio, non per mentire. Ma vediamo Tiziana da quale parte sta. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Lei è la prima a chiamare. Grazie. Sto mentendo, perché hanno chiamato tanti, ma ho scelto lei. Senta, no, io ho una poesia scritta da mio figlio. È una bugia, l'ha scritta lei? No, l'ha scritta mio figlio, non mi assumo la responsabilità. Facciamo finta che l'ha scritta sua figlia. Ogni carrafone è bello mamma sua, per cui secondo me questa è una bella poesia. Lo dice mentendo, sapendo... Scusi. Guardi, è velocissima. Sì, ma lei mi deve ascoltare, perché il tema di oggi è la menzogna. Esatto. Se lei mi fa semplicemente la mamma che legge la poesia fiera del figlio, è fuori tema, devo segarla all'istante. Se lei mette degli aspetti menzogneri nella sua telefonata, ha possibilità di leggere la poesiola dello scarafoncino. Ok, va bene. Allora dica che l'ha scritta lei, la verità. Ok, l'ho scritta. E finge che l'ha scritta suo figlio. Il discorso sulla verità menzogna è che in questa poesia riflette il tema, in quanto descrive la menzogna contrapposta alla verità, che cos'è. Ma quanti anni ha la creatura? La creatura ha 21 anni. Bambino, cioè c'hai i baffi, la barba, è un uomo ormai. Sì, però lui non c'è, e anzi lui le tiene chiuse nei cassetti, non le vuole far leggere, allora ci penso io. Oh, giustamente, lei ha rubato la poesia nel cassetto segreto, perché sta ancora nella cameretta a casa sua lui. Va e viene, va e viene, perché studia a Roma e quindi... Sì, sta a casa che fuori, sì. Sta sempre dentro casa. Beh, grazie, c'ha la fortuna e questo grande privilegio di avere una mamma come lei vicino, che appena lui mette il naso fuori casa, infila le mani nel cassetto segreto delle poesie e le legge alla radio. Lui me l'ha regalata, me l'ha fatta leggere. Allora mentiva prima quando diceva che l'aveva rubata. La tengo ripiegata preziosamente dentro la mia borsa. La tiene in seno dentro un medaglione? Sì, esatto. Vedi che cominciamo a ragionare dal punto di vista delle bugie. Allora, tragga dal seno questa poesia e ce la legga. Allora, si intitola Verità e menzogna. Verità è immobile e ferma, aspetta che qualcosa accada, nulla si muove, ma lei osserva e intanto lima la sua spada, nera putrida che sa di fogna, lentamente le si avvicina, ride di gusto la menzogna, ignorante ed assassina. Verità sente il suo odore, si gira, impugna l'arma, non si spaventa del fetore, è distaccata, fredda, calma, menzogna. Lusingandomi come tentacoli, trafiggo con denti di veleno. Non c'è nulla che mi ostacoli, muore tutto in un baleno. La menzogna, così dicendo, sulla preda si avventa veloce, il vero cuore va mordendo in modo famelico e feroce. Come? Ma Verità non si spaventa, lei è limpida perla pura. Menzogna non la tenta. Quanto dura, signore? Quattro righe. Sì, così il gioco poco dura. Con mossa agile e repentina schiva l'ammorbante morso. Fate un caffè. Sicura e indifferente si china. Finita. Finita. Inferendo un colpo al dorso. Un'altra menzogna crollata, sporca almeno quanto banale, la decapita con una spadata ed è questo il gesto finale. E chi pensava, secondo lei, suo figlio quando ha scritto questa poesia? Pensava a quanto la menzogna possa uccidere, quanto possa essere pericolosa e dannosa. E lei è fiera di questo? E che la verità è sempre vincente sulla menzogna. Cioè, anche se poi il confine netto tra verità e menzogna non c'è mai, perché no, dipende dai soggetti. Al di là dell'indubbio valore poetico dello scritto di suo figlio, che mi ha fatto palpitare e mi ha dato delle sensazioni, io trovo un po' preoccupante questa sorta di immagine di figura femminile putrescente che incombe sulla verità e questa sorta di duello da spadaccina tra verità e menzogna. E ci prendiamo la libertà di riflettere un attimo sulla composizione di suo figlio, anche perché mi stanno arrivando dei messaggi di Facebook. Una certa Benedetta mi chiede a piene mani di motosegarla. Risparmio il dente acuto della motosega e passo a Annalisa. Annalisa è circondata da fantasmi. Eccomi. Sì, sono qua. Spenga la radio, Annalisa, sennò c'è l'ectoplasma che incombe. Ma non mi sento, va bene, comunque spengo. Ma senta al telefono, stai tranquilla. Allora, niente, io intanto intervengo appunto sul tema delle bugie. Spero che non abbia poesie anche lei. Pronto? Sì. Vabbè, niente, non, questa è proprio la mattina, state mentendo. Penso che sarebbe meglio... Pronto? Niente, non la sento più. Niente, motosegatela. Andiamo avanti. Rischi. Uno dei rischi più frequenti nel mentire è l'assuefazione. La bugia è un mezzo, non un fine. Ma quando si mente troppo, si comincia a fare confusione. Si comincia a credere in quello che si dice e di conseguenza a perdere contatto con quella sincerità verso se stessi che è fondamentale per qualunque bugiardo degno di questo nome. Naturalmente il pericolo cambia a seconda che si tratti di assuefazione monotematica o assuefazione totale. Nel primo caso, il soggetto si assuefa a mentire sempre allo stesso modo sul medesimo tema. È il caso, il tristo caso, di molte coppie. Mi ami? Sì. Per sempre? Sì. C'è solo un problema. Non è vero. Solo che uno, alla fine, se ne convince. E anche se non ama il proprio partner, considera normale comportarsi come se lo fosse. Questo, tuttavia, può rendere meno felici, può rendere la nostra vita meno avventurosa, ma raramente crea dei veri e propri problemi. Bene, queste sistematiche dissertazioni sulla menzogna sono tratte da un libro che proprio oggi esce in libreria. È il manuale del perfetto bugiardo di Flavio Pagano, edito da Manifesto Libri. È il libro in cui viene classificata la trilogia dei personaggi che abbiamo sentito all'inizio come tre grandi categorie di menzogneri. Io domando a Flavio Pagano che è in ascolto, Flavio Pagano, buongiorno. Eccoci, intanto. Buongiorno. Allora, buongiorno. Io dicendo a quella signora che ha letto l'orripilante poesiola del bamboccione che tiene recluso in casa e di cui ha la responsabilità penale e civile, dicendo che è una bellissima poesia, a quale categoria di bugiardi appartenevo? Ma direi che poteva essere forse un po' trasversale in quel momento. Cioè la più schifosa delle bugie, quella che attraversa tutte le categorie. Quella che attraversa tutte le categorie, quindi non ha molta personalità, però ha, come dire, la sua scivolosità è insidiosa. Beh, sa dire a una mamma che quindi... confermare all'amore materno la terrificante espressione patologica di un ragazzo che vede mostri attorno a sé, la cui cameretta è violata continuamente nei suoi segreti più intimi, in realtà è stato crudele, perché non salvo la vita a nessuno, altrettanto crudele forse di svelare adesso la menzogna a pochi istanti da questo compiacimento. Certo, diciamo però intanto che noi siamo in radio in uno dei regni grandi, storici della bugia. L'ho ammesso perché, all'inizio, infatti. No, ma perché c'è un archetipo, diciamo, c'è la bugia di Orson Welles, che credo fosse radiofonica. Era un gioco, era un inganno, ma sì. Sotteso, diciamo, da una bugia. Mi sembra che questo andasse detto per chiarire subito che, insomma, potremmo essere anche noi dall'altro lato, insomma, e starle dicendo piuttosto che chiedendole le parti. Sa Pagano, visto che da questa mattina lei sarà l'esperto in bugie, colui a cui tutti ricorreranno per avere conferma. Ma ci sono molti in Italia di esperti in bugie. Sì, ma lei ha avuto almeno il coraggio di scriverci un libro sopra e dire: benissimo, vi spiego. Così. Tanto vale che sappiate da che parte stiate quando mentite. Mi ha spinto il mio grande amore per la verità, naturalmente. Naturalmente questa è una solo bugia. Solo quello, certo, può spingere verso la bugia, e soprattutto, insomma, il libro è lontanissimo da qualunque moralismo, naturalmente, però esiste, come abbiamo, mi sembra, anche detto, una bugia che impollina, no? Una bugia che ingravida, quindi amplia, arricchisce, colora, gonfia, diciamo. Ma diciamo la verità, la vittima del bugiardo è un privilegiato. Il bugiardo che segue il principio guida fondamentale, cioè la bugia si dice agli altri, si mente agli altri, mai a se stessi. Chi mente a se stesso piuttosto che agli altri non è un bugiardo, è un cretino, insomma, diciamo, sostanzialmente, oppure è una persona giunta in uno di quei tunnel, come dire, dell'esistenza, dove o tu ti dipingi le pareti o il cielo non lo vedi più. Questo mi sembra un passo fondamentale. Allora, sì, la bugia è un ottimo mezzo di socializzazione, è un meraviglioso viatico e dono che si fa al nostro prossimo, purché siamo ben consapevoli e non ci prendiamo per i fondelli con noi stessi. Noi stiamo mentendo. E questo mi sembra la prima massima di vita fondamentale. Ecco, sì, diciamo di sì. E poi consapevolezza della portata della bugia, insomma, cioè è naturalmente un'arma potente che può avere quindi conseguenze molto significative come gioco, ma può averle anche, diciamo, nei suoi danni notevoli. Tra l'altro pure quella di Orson Welles ebbe delle conseguenze molto diverse. Sì, la gente, no? Si spaventò moltissimo. Credo che ci fu gente che morì. Ci fu del panico assurdo. Io feci una cosa del genere all'inizio di questa stagione, parlando, ecco, di zombie, e dicendo che c'era il virus dello zombie. Ci furono persone che ci credettero veramente, ebbe anche reprimende su questa. Il virus dello zombie. Però mi sembra che seguendo la sua linea, la bugia deve essere enorme, grossa, fantastica, se no le piccole bugie sono da piccoli uomini. Beh, posso fare un esempio politico, mi dispiace, sì, ce n'è uno emblematico, ma mi tocca nominare il nostro presidente, che insomma spesso è tirato in ballo, sì, in, sì, situazioni del genere, quando promise 1 milione di posti di lavoro. Se lui avesse detto, non lo so, 21.000, la gente si metteva a contarli, magari c'è un momento, qua i conti non tornano, dove li pigli 21.000? Ma dicendo 1 milione, alla fine uno viene agganciato semplicemente nel suo desiderio inconscio di averlo sto lavoro. È come dire ti amerò per tutta la vita, che è una contraddizione. Forse la bugia più bella e più antica, è la più credibile, più emozionante. Eh sì, perché lì siamo proprio sull'orlo e l'abisso, dicendo questo. Allora cose. Senta Pagano, fermiamoci un istante, che dobbiamo dare le informazioni alla borsa, che naturalmente di bugie non tratta, e fra un istante riprenderemo la meravigliosa maniera poi per mettersi con le spalle al muro e salvarsi quando si è con le spalle al muro, quando la bugia, nella peggiore delle ipotesi, viene scoperta. Melog 2.0. Quando la bugia non regge. Quando una bugia viene scoperta, la prima cosa che di solito accade è il processo. Un processo scorretto, senza difesa, in cui la vittima della bugia si erge a giudice e comincia a dirne di tutti i colori. Non fateci alcun affidamento. Ascoltate, non lottate, non vi difendete. Indietreggiate, lentamente e costantemente, fino a condurlo lontano dalla bugia iniziale. Questa è la fase in cui cercano di mettervi all'angolo. Sarete colpiti da una gragnola di pugni, mazzate da tutte le parti, insulti e provocazioni. «Ecco la verità! Sei un bugiardo e un traditore! Tutti me lo dicevano di non fidarmi di te, ed io folle che non ci volevo credere!» Dopo inizia, non di rado, la fase della calma apparente. «Va bene, ma adesso voglio sapere la verità. Raccontami tutto nei minimi dettagli. Voglio sapere tutto!» A questo punto iniziate un tremendo fuoco di sbarramento. Scatenate l'inferno. Negate. Negare, negare sempre. Negare l'evidenza. 80024 0024, ecco la risposta che ho lasciato sospesa alla fine della prima parte, ha avuto la sua soddisfazione in questo brano tratto dal manuale del perfetto bugiardo di Flavio Pagano, edizione Manifesto Libri, da oggi in libreria. Mentire significa poi saper negare anche di fronte all'evidenza. Sono perfettamente convinto che la realtà sia questa. Mai un vero menzognero, mai un vero mentitore, mai un bugiardo professionista, colui, come ci insegna Flavio Pagano, inganna tutti meno che se stesso, quindi perfettamente consapevole dei propri limiti, perfettamente consapevole della propria natura, perfettamente consapevole di essere, come sempre dico io, il mago di Oz nel caso di un conduttore radiofonico, quindi l'omettino piccolissimo nascosto in una grande macchina che amplifica ogni sua qualità, ogni sua dote, lo rende terribile, lo rende roboante, lo rende affidabile. In realtà bisogna che lui abbia la consapevolezza di essere quell'ometto piccolissimo e quindi sarà capace di mentire. Ma nel caso malaugurato che qualcuno lo scopra, sempre negare, fortissimamente negare di fronte ad ogni evidenza. Flavio Pagano, è realmente così? Assolutamente così. E tornerei un attimo Pensi lei i malati e i masochisti che ammettono, anzi precedono la scoperta e dicono: guarda, ti ho mentito. Vabbè, quello è il frutto evidentemente innocente e vagamente autodistruttivo. Persone malate comunque. Di Edipo, insomma, quella è l'esigenza del bambino alla mamma, quella di confessare. Ma il bugiardo di cui abbiamo parlato adesso nelle cose dette proprio negli ultimi istanti è quello di tipo Ulisse, quindi stiamo parlando di una macchina da guerra. E cominciamo con Ulisse, che è quello che mi sta più simpatico dei bugiardi. Di Ulisse, francamente, cercavo adesso qualche episodio, qualche esempio. Mi vengono in mente però più personaggi femminili in questa epoca adatti ad incarnare Ulisse, perché la tipologia maschile forse sta un po' perdendo quella grinta, diciamo. Sì, si perde un po' troppo. Sì, quel cinismo, quella fiducia in se stessi. Sì, diciamo sono degli Ulisse che hanno fatto comunella con i proci ormai e quindi hanno perso parte della loro maschilità. Sì, assolutamente, mentre tra le donne insomma vengono in mente forse con facilità anche qualche un po' di esempi di queste registe come Carla Bruni, mi viene in mente per esempio, che mi sembra... Ah, Carla, certo, meravigliosa. La Carla, mi sembra, a cominciare dalla nazionalità, no? Cioè, io sono francese. Qua siamo apparentemente di fronte a un piccolo delirio. Nel caso di Carla Bruni, che è un personaggio che mi ha molto appassionato, la sua esegesi, io trovo che lei abbia trovato la meravigliosa formula della valorizzazione della passerella. Quello che per lei era la passerella è diventato la chiave fondamentale di tutta la sua esistenza. Lei sfila continuamente in un pubblico di ammiratori e lei va lì, cammina sulla sua passerella e tutti pensano che lei sia una sorta di dea scesa sulla terra. Questo è un altro esempio. Assolutamente, e ottenere, come dire, dalla manipolazione, chiamiamola così, della realtà un grande vantaggio è la caratteristica fondamentale del pericoloso tipo Ulisse, perché naturalmente abbiamo di fronte un bugiardo vero che non vive tensioni, quelle tensioni che poi procurano tutta una serie di scarichi sui quali si parla nel libro diffusamente, no, della comunicazione non verbale, che poi ecco, è la Pagano, chiave abbiamo lettura. Al telefono fatalmente, in questo momento, secondo me, un perfetto rappresentante dell'Ulisse degenere che stiamo cercando di idealizzare in questo momento o classificare. Manfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Qual è la sua bugia? Vediamo se lei è l'Ulisse degenere. Stavo ascoltando per caso la vostra trasmissione, di solito seguo un'altra radio e mi sono incuriosito. No, la mia menzogna più grossa è stata quella di convincere mia sorella a vendere la macchina e ipotecare la casa per i miei presunti problemi con le tasse, e in realtà me la passavo con un trans qui a Firenze. Quindi lei si è pagato il suo godimento con il trans turlupinando la sorella, poverina, sì, che esatto. E facendosi dare i soldini strappati dalla bocca dei nipotini di sua sorella. Esatto. Addirittura mia nipote ha dovuto mettere una firma, lei lavora in un albergo, una fideiussione per continuare a permettermi questo mio giochino, insomma. E la cosa buffa è tutte le volte a Natale che mi vogliono bene dell'anima, perché gli sparo delle cavolate in questa maniera, in realtà me la spasso alla faccia loro. Quindi lei ha perfetta consapevolezza del fatto che... Certo, lo faccio apposta forse. Sì, lei... Per il gusto, perché da piccino mia sorella mi picchiava spesso, lei è più grande di me, e allora ho deciso in qualche maniera di fargliela pagare e la faccio bollire a fuoco lento in questa maniera. Flavio Pagano, è d'accordo che qua abbiamo una sorta di Ulisse moderno? No, assolutamente no. Abbiamo chiaramente davanti un tipo Munchausen, insomma. Ad esempio? Anzi, quindi... dovrebbe accostare, rallentare, mi sembra di aver capito che sia in auto. Sì. Ma io mi auguro, voglio dire, che naturalmente si tratti di un'invenzione, e credo che questa bellissima, però divertente, vista come invenzione, molto divertente... mi farebbe più pensare alla tipologia, diciamo, incarnata dal barone di Munchausen, cioè... Quindi Manfredo sta mentendo, ha radicalizzato... La cosa vera che ha detto è che non stava sentendo Radio 24, ma ci è arrivato per caso, secondo me. Comunque, diciamo che la costruzione delle categorie della massima perversione, del massimo desiderio, del massimo oltraggio, dell'amore filiale, fraterno e sorellanza, che lui ha infangato, distrutto lucidamente, consapevolmente, con desiderio anche di ulteriore frazione nei nipotini piangenti sotto l'albero di Natale che hanno rinunciato al giocattolino perché lo zio andasse a trans, secondo me Manfredo merita qualcosa. Il vincitore è... E vinto qualche cosa? A Manfredo, che ha saputo in maniera così mirabile costruire fantasiosamente una storia di perfido cinismo, va il libro SOS Matrimonio, come organizzare al meglio il giorno più bello della vostra vita, di Simona Malcovati e Chiara Parrini. Manfredo è contento? A parte non sono sposato e non, per questo, ma ha vinto, è un libro, è un libro infame, lei ha vinto un libro infame. Infamissimo, però permettimi Gianluca, posso avere la tua dedica comunque. Certo, l'unica cosa che dà valore, infame la voglio, però. L'unica cosa che dà veramente valore al libro infame è che è dedicato, anzi guarda, ti dirò di più, visto che siamo per infamità, questo libro... lo avevamo già assegnato a Mario, puzzone imperterrito, però non l'ha voluto, e quindi rifarò la dedica sulla dedica di Mario, è un libro di bellissimo, seconda mano. Andiamo avanti con Tommaso. Tommaso. Assegnato a Mario, puzzone imperterrito, però non l'ha voluto. Tommaso a me è ritardato, non so che stia succedendo questa mattina. Beh, diamo la linea all'informazione del traffico, poi capiremo perché c'è questo sfalsamento spazio-temporale che sento il mio fantasma di quello che ho detto 10 minuti fa. Melog 2.0 800 24 0024. Stiamo parlando di menzogna, di bugia, stiamo tentando di definire le categorie del bugiardo, stiamo allucinando meravigliosamente il fatto che tutti mentiamo, tutti siamo bugiardi. Il punto di discrimine tra i bugiardi che mentono con il prossimo e quindi ne fanno una proficua attività sociale e anche benefica nei confronti dei propri simili, e i bugiardi che mentono anche a se stessi, quindi sono ingambiati dalla menzogna che non gli permette di conoscere i propri limiti e quindi di mentire con una possibilità superiore di non essere scoperti. Tommaso, l'abbiamo recuperato? Tommaso? Silenzio, Tommaso, silenzio. Sentiamo Cristian allora. Sì, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è un mixer menzognero questa mattina che mi impedisce di cogliere gli ascoltatori. Sentiamo Cristian. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sto raccontando, sto chiamando perché volevo raccontare un piccolo aneddoto successo nel paesino qua vicino a Perugia dove vivo. Che paesino è? Si chiama... no, preferirei non dire il nome. Vabbè. Ok, allora durante la festa... è da parte dei ponti, immagino. Dalle parti dei ponti, esattamente. Allora, sentito l'accento per caso? No, sento l'accezione, diciamo, l'effetto additivo tiberino che considera che il pontigiano abbia una... Io sono di Perugia, quindi lo so perfettamente. Di dove è lei? È di Perugia. Di dove? Perugia, guarda, non posso dire le mie coordinate geografiche d'origine alla radio, sennò mi vengono da fuoco a casa dei genitori, però sono di Sicilia. Anche questa è la motivazione per la quale io non ho letto il paese. Certo. Allora, niente, lei rischia le piume e la pece. Avanti, andiamo avanti. Durante questa festa paesana, sì, hanno fatto una gara dove il candidato, cioè tutti i ragazzi eravamo, o raccontava una cosa vera ma incredibile, o raccontava una menzogna grandissima. Alla fine il premio l'ho vinto io raccontando la menzogna più grande, alla quale però tutti hanno creduto, e niente, un pinocchietto d'oro, che tutto d'oro non era, una farina in legno rappresentativo della festa. E quindi? Non fa ridere. Dica almeno qual era la bugia. Qual era la bugia? La bugia alla quale tutti hanno creduto che ho fatto io il lago che sta vicino a casa di mia nonna, da Ghettino piccolo, che sono riuscito a portare la ragazza più bella del paese e sedurla. E invece non è vero, né che avevo fatto il lago, e nemmeno che portai purtroppo la ragazza. E come hanno fatto a crederci? Come ha fatto a essere credibile? Niente, non so come mai, forse sono anche bravo a giocare a poker. Infatti voglio sapere la relazione tra il poker e la menzogna dal professore. Ah, sentiamo, Flavio Pagano, autore del manuale Il Perfetto Menzognero, chiede... Io ascoltavo incantato, per la verità, perché ancora una volta mi sembra che qua ci troviamo di fronte clamorosamente al tipo Munchausen, pulluliamo di Munchausen, perché effettivamente, insomma, come hanno fatto a credere a questa cosa? Sì, mi sembra una tal cavolata tutto, che mi sembra poco credibile, anche il Pinocchietto d'Oro, io guardi, conosco tutte le sagre... Tutte le sagre umbre dall'origine ai tempi nostri, mai sentito dire il Pinocchietto. Tempo Giardo che mente a se stesso, c'è un tipo molto, molto comune, secondo me, come dire, che ha un languore struggente particolare, è la persona che dice di aver smesso di fumare, oppure per esempio che dice di fumare meno. È letteralmente impossibile sentire la verità, ma nella loro totale inconsapevolezza, però, da un fumatore. Quante sigarette fuma? Poche. Ma vale anche per la dieta questo? Mi sono messo a dieta. Potrei parlare, insomma, certo. Non posso venire a cena a te perché sono a dieta. Quella cosa non la posso mangiare perché sono a dieta. Sì, fa parte anche delle piccole autofustigazioni quotidiane, insomma. E questo va contro lo spirito bugiardo sano, insomma, in questi tempi oscuri di decadenza, di non chiarezza di idee. Alla fine sì, è un momento in cui bisogna essere radicali. I finti bugiardi vanno smascherati, tornino nel recinto degli agnelli, diciamo la verità. Nel senso delle persone inoffensive. Perché il bugiardo, io lo dico anche nel libro, è un carnivoro. E invece gli altri devono stare nel recinto degli agnelli, senz'altro. Sentiamo Jason. Jason, immagino. Sì, pronto. Salve Jason. Buongiorno Nicoletti, la seguo dai tempi di Golem, mi fa molto piacere di poter parlare. Non è vero naturalmente, comunque andiamo avanti. No, questo è vero, no. Ma allora che bugiardo è lei, se nemmeno è capace a mentirmi? No, questo è verissimo. Io sono un bugiardo pentito e che poi si è pentito di essersi pentito, mi spiego meglio. Sono stato molto bugiardo in tante cose, in tanti aspetti della mia vita. E un giorno l'ha confessato? No, non l'ho confessato, un giorno mi sono detto... Adesso basta vivere nella menzogna, basta vivere di bugie, prova un po' a smetterla, perché così è andato un pochino in crisi, diciamo. Certo. Ho provato per 6, 8, 10 mesi circa a dire la verità, a non essere bugiardo e non ce l'ho fatta. E sono stato proprio anche male nel tentativo. Ma chi l'ha fatto fare di vivere così male? Perché si è inferto questa tortura di dire la verità per 6 mesi? Com'è possibile vivere dicendo la verità? Tra l'altro faccio anche una professione in cui dire la verità mi è anche molto difficile. Cioè fa l'avvocato, quindi... beh, chiaro. Ecco. Cioè, c'è anche un film famoso in cui viene preso dal virus la verità e va alle cause e fa perdere tutti i suoi clienti. Esatto, infatti, sì. Io quel periodo lì lo ricordo veramente, già, sono già passati 4-5 anni, lo ricordo comunque con terrore proprio, perché lo sforzo che ho fatto, tra l'altro mi è servito anche per dimagrire, insomma mi è venuta un'altra depressione per essere sincero. Quindi socialmente era un emarginato, immagino. Ma no, normale, una vita normale. Non sì, perché è, c'è non, un sacco non... di gentaccia che apprezza la verità come valore, questo me ne rendo conto. Vabbè, Jason, lei ha ancora parte della vita che può, in cui può riflettere ed espiare questa sua grave colpa di aver detto la verità per 6 mesi, ma voglio dargli un aiutino, visto che siamo in conclusione, e quindi penso che forse se lo meriti, se non altro come incoraggiamento, lo consideri una sorta di terapia di recupero. Il vincitore! Ho vinto qualche cosa? Per il povero avvocato Jason, che ebbe la malaugurata idea di dire la verità per 6 mesi e ancora piange per questa sua disgraziata risoluzione, Idiozie Geniali di Lorenzo Haidt, come trovare la forza per portare avanti le proprie idee. Bene Jason, lo avrà quanto prima. Le servirà a ricordarsi di mentire sempre. Vito, buongiorno. Vito. Allora, niente, io a proposito di mentitori indolenti, ci sta un mio amico che comunque tradisce la moglie lo ha scoperto e nonostante ciò, nonostante la moglie ha le prove, lui nega. E beh, fa bene, fa parte del mandato, cosa dovrebbe fare? Ammetterlo, scusi. Ma sì, perché non, cioè, ha le prove, è stata vista, la moglie l'ha visto. Ogni prova può essere confutata. Che vuol dire avere le prove? Non esiste prova. Ammesso che ci si trovi addirittura con il sorcio in bocca, in palese consumazione di atto, uno può sempre dire: guarda, ho avuto uno sdoppiamento di personalità, sono stato costretto. Come sembra? È così, bisogna fare, questa è la regola. E lei si meraviglia, questa persona? Io non ne sarei in grado. Lei non è capace a mentire? Io non essere in grado, cioè, così spudoratamente io cadrei nel mutismo. Lei cosa farebbe colto sul fatto? Immaginiamo sua moglie la trovi in un momento di palese adulterio, lei con mano nella mano, occhi negli occhi, di fronte a un chiaro di luna, con il calice dello champagne in mano, mi tengo in una visione piuttosto edulcorata, cosa direbbe? No, io in quelle condizioni alzerei bandiera bianca, di sì, è così. Scusa, ho tradito, non lo farò mai più, perdonami. Ti amo, è stato un momento, è stata lei che mi ha costretto. Più o meno, questa sì, è stata lei che mi ha costretto. Ecco, benissimo. Flavio Pagano, negli ultimi minuti, dove stanno... Minuti abbiamo incontrato due Pinocchi. Degli errori madornali. Spaventato, spaurito, sì. Questi sono chiaramente degli esempi di Pinocchio e, come dicevamo prima, abbondano sempre di più nell'ambito del mondo maschile queste figure inermi. Dai tempi, quindi, diciamo, chiamiamolo il patto coi proci, che porta gli uomini a non essere più capaci di mentire, che era una delle meravigliose qualità che aveva l'uomo. L'uomo, in realtà, tutta la virilità, tutta la mascolinità è una grande menzogna, è un grande bluff, è una grande costruzione. Se cadono le basi della menzogna, gli uomini non hanno più ragione di esistere. Va sostenuto con disinvoltura, però, e con un po' di sfacciataggine, altrimenti cade tutto. E teniamo presente però che mentire alle donne è difficile, perché le donne ci cascano fondamentalmente o se sono innamorate perse o se non gliene frega niente. È molto difficile, però lei capisce, è l'unica maniera per sopravvivere. Perché loro fiutano chimicamente la bugia, come molti altri sentimenti, ne hanno ancora queste capacità. L'importante è sapere e capire, secondo me, Pagano. Della specie. Pagano, visto che siamo in conclusione, la ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, nel caso dell'uomo mentitore che è convinto che la donna beva la sua menzogna, dovrebbe cominciare a preoccuparsi. Quando una donna a lui cara capisce che beve totalmente la menzogna, significa che ella stessa sta mentendo a lui. E se lui di questo è preoccupato, forse è il caso e comincia a rivedere la menzogna verso se stesso. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.